24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alle 7:21 minuti in punto. Saluto Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Saremo in diretta fino alle 9, siamo anche nella nostra pagina Facebook 24 mattino. Oggi parleremo di quella che è la lettera consegnata dal Premier in Europa con il piano per l'Italia che sarà, secondo Berlusconi, il suo governo. Tra l'altro avremo ospite il ministro degli esteri Franco Frattini alle 8:20. Poi parleremo insomma di attualità politica. Anche avremo ospite quella scolaresca, la professoressa che ha accompagnato quella scolaresca che ieri ha assistito a una rissa da Far West alla Camera. Questa alle 8:30. Si sono scusati con loro personalmente dopo quella rissa. Erano degli studenti lì a vedere. Vediamo come funziona in Parlamento. Pim, pum, pam, botte da orbi. Vabbè. Iniziamo da cosa? La lettura dei giornali in edicola. Giovedì 27 ottobre, i titoli sono tutti declinati sull'attualità dopo la lettera consegnata da Berlusconi a Bruxelles. Più facile licenziare e piano dismissioni, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, primi sì dall'Europa al piano italiano. Per Repubblica, Berlusconi, licenziamenti più facili. La Stampa, licenziamenti più facili per l'Unione Europea. Il giornale, ecco l'Italia di domani, l'Europa accoglie il progetto Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano invece il titolo è lettera morta, Berlusconi rifila all'Europa promesse di macelleria sociale, dalle pensioni a 67 anni a licenziamenti facili. Il Messaggero, pensioni e lavoro sì dell'Europa. Per Libero, Fini, pensionato a vita. Mentre l'Unità punta sulla tragedia della Liguria, morti di fango, mentre il Manifesto sulla lettera di Berlusconi, lettera di licenziamento. Questi alcuni titoli di apertura dei quotidiani. Intanto, crisi sì, crisi no. C'è un'istituzione dove la crisi pare non si senta, Palazzo Chigi, che fa sapere il Corriere a pagina 19 con Sergio Rizzo, assume 33 persone. Ebbene sì. L'esercito dei 4.600 dipendenti. Sono 10 anni esatti da quando, 8 settembre 2001, scrive Sergio Rizzo, Berlusconi raccontò di aver incontrato una Margaret Thatcher esterrefatta perché il suo successore, il laburista Tony Blair, aveva portato da 70 a 200 il numero dei collaboratori di Downing Street e confessò il proprio sconforto. Berlusconi, io a Palazzo Chigi mi sono trovato 4.500 persone. Penso che serva una rivoluzione pacifica per ammodernare lo Stato. Sono rimaste parole. Quanti siano adesso i dipendenti della Presidenza del Consiglio nessuno lo sa con esattezza, ma ci potete scommettere. Meno di quanti ne trovò nel 2001 il Cavaliere non sono di certo, anche perché qui non vale quello che si verifica negli altri uffici statali dove per legge hanno dovuto stoppare il turnover. Qui chi esce viene subito rimpiazzato. Crisi o non crisi? Volete una dimostrazione? Dopo aver approvato ad agosto una manovra che rende tassativo il blocco delle assunzioni e prevede il taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali, Palazzo Chigi fa un decreto che spiana la strada all'assunzione in pianta stabile alla Presidenza del Consiglio di 33 persone, 12 dei quali dirigenti, destinati a finire anche loro nella nebbia dei conti presidenziali. Fitta, anzi fittissima. E allora ecco qua, 33 nuove assunzioni a Palazzo Chigi, 12 dei quali in posizione dirigenziale, il decreto di autorizzazione firmato dal ministro Brunetta, lo fa sapere il Corriere. Soprattutto questo dato, ricordatevelo, quello citato all'inizio, magari ve lo siete perso, circa 4.600 dipendenti alla Presidenza del Consiglio italiana, 200 a Downing Street, vale a dire dove risiede il Premier britannico. Storie di casta, se volete, la racconta il Quotidiano Nazionale, il blindato di Formigoni, mostro da 272.000 euro parcheggiato in garage. Ma come? Ebbene sì, Stefania Consenti racconta, pagina 20 del Giorno, l'edizione del Nord del Quotidiano Nazionale, era stata acquistata anni fa per garantire l'incolumità del presidente della regione Lombardia, ma da qualche tempo è ferma nei sotterranei del Pirellone. Un'auto blindata BMW 760 serie High Security che monta un motore fino a 6.000 di cilindrata. Fa parte delle pattuglie delle auto blu del presidente, ma solitamente non viene utilizzata con la stessa frequenza delle altre. Eppure, ai tempi, correva anno 2005, fu acquistata questa vettura in leasing per 2 anni, 272.000 euro, riscattabile al terzo anno. 270.000 euro, blindata, eh? Eccolo qua, mostro da 272.000 euro il blindato di Formigoni, parcheggiato però in garage, secondo il quotidiano nazionale, non è più utilizzato e ci si chiede il perché. Forse si chiede il perché, fatemi concludere prima della pubblicità con un sorriso, anche questa signora. Lo racconta Libero a pagina 22. Una signora della provincia dell'Aquila si è rivolta a un bambino in questo modo perché stava facendo un po' appunto lo scioccherellino. Così, si è rivolta a questo bimbo per riprenderlo. Denunciata, condannata a un risarcimento danni per avere offeso il decoro di un ragazzino umiliandolo davanti ai suoi amici con questo epiteto, a deciderlo con tanto di tribunale, cancellieri, firme, controfirme, burocrazia, carte, il giudice di pace presso il tribunale di Avezzano, condannata la donna con sentenza definitiva a 600 euro di multa per avere dato dello scioccherellino a un bimbo che forse stava facendo una marachellina. 24 mattino. Allora, alle 7:34 minuti andiamo subito a vedere che cosa è successo ieri a Bruxelles, dove il presidente Berlusconi ha presentato questa lettera, un piano di intenti, l'ha definita lui, un vero e proprio programma di quello che Berlusconi dice faremo nei prossimi 8 mesi per rilanciare l'Italia. È più facile licenziare piano dismissioni, così come ripeto il titolo di apertura del Sole 24 Ore, nuove regole per i licenziamenti per motivi economici nei contratti a tempo indeterminato. Questa è una dei punti presentati che fanno maggiormente discutere. Infatti a pagina 2, sotto il titolo nuove regole sui licenziamenti, Carmine Fotina e Marco Rogari raccontano riforma del lavoro entro maggio del 2012 con licenziamenti più facili in presenza di stato di crisi. Anticipo degli incentivi fiscali alla crescita economica per favorire la capitalizzazione delle imprese, pensionamento di vecchiaia per tutti a 67 anni nel 2026, facendo leva sulle regole già in vigore, piano Eurosud per sfruttare tutti i fondi europei a disposizione e varo a novembre di un programma di dismissioni del patrimonio pubblico del valore di 5 miliardi nel prossimo triennio. Insomma, questi i punti, insieme alla mobilità obbligatoria per gli statali, al via libera nel 2012 alla delega fiscale e all'esame del Parlamento, i punti cardine della lettera di impegni inviata a Bruxelles in tarda mattinata dal premier Berlusconi. Dopo la lunga e tesa trattativa con la Lega, certo il punto più importante è questo. Intanto, quanto è il timing? 8 mesi. L'esecutivo intende operare nei prossimi 8 mesi su questo, secondo questo timing, rimozione già prima della fine dell'anno delle restrizioni alla concorrenza, definizione entro 4 mesi di deregolazioni in favore delle imprese, adozione entro 6 mesi di misure per favorire l'accumulazione di capitale fisico e di capitale umano e che ne accrescano l'efficacia, completamento entro 8 mesi della riforma del mercato del lavoro. Beh, certo, una lettera di intenti molto impegnativa, tanto che fa sapere il Sole, l'Unione Europea ci promuove con riserva, nel senso che l'Europa ha accolto con favore i programmi dell'Italia per le riforme strutturali finalizzate a rafforzare la crescita e per la strategia di consolidamento fiscale. E un po' sono anche i rilievi che erano stati mossi dalla Banca Centrale Europea nella famosa lettera di agosto. Però, come ha fatto sapere anche Angela Merkel in un colloquio con Berlusconi, il senso è ora questi impegni presi li dovete rispettare minuto per minuto. Ed è su questo che per esempio le opposizioni attaccano sia a livello politico. È su questo, per esempio, che il Fatto Quotidiano titola "Lettera morta". Berlusconi rifila all'Europa promesse di macelleria sociale. Dall'altra parte, invece, il Giornale titola così: "Ecco l'Italia di domani. L'Europa accoglie il progetto Berlusconi". Ho citato volontariamente e volutamente il Fatto e il Giornale su questa posizione, anche perché alle 8.30 avremo ospiti i direttori dei due quotidiani, Alessandro Sallusti per il Giornale e Antonio Padellaro per il Fatto Quotidiano, per parlare dell'attualità politica. Insomma, Berlusconi pare soddisfatto. Ieri è intervenuto anche poi telefonicamente a Porta a Porta e ha detto a questo punto: Bini Smaghi si deve dimettere, è il punto di frizione con la Francia, perché tiene la posizione all'interno del board della BCE, posizione che Sarkozy vorrebbe per un francese. Berlusconi, secondo Marco Galluzzo del Corriere della Sera, è soddisfatto perché nei giorni scorsi ha detto: "Hanno provato a chiederci dei miracoli, ma ancora non siamo attrezzati". Certo, il tema del lavoro, quello sulla promessa titolata così di licenziamenti più facili, è quello che già fa discutere, anche se i dettagli non si conoscono. Nicoletta Picchio ne parla a pagina 5 del Sole 24 Ore. È lì che si torna sulla questione dei licenziamenti. In primo piano, stando al testo, appaiono le norme sui licenziamenti individuali e collettivi, la 604 del 1966 e la 223 del 1991, ma è inevitabile che si arriverà a toccare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. E tra l'altro, su questo vi segnalo un'intervista al giuslavorista e senatore del Partito Democratico Pietro Ichino. Sulla Stampa, pagina 9, non è un tabù, dice Ichino, di una disciplina dei licenziamenti per motivi economici abbiamo bisogno e corrisponde a quello che la Banca Centrale Europea ci ha chiesto con la lettera del 5 agosto. Se il governo intende far riferimento a questo, sarebbe una scelta necessaria e doverosa e corrispondente a quelle richieste. Se intendesse altro, il punto è proprio qui. Su questa materia si possono avere riforme di segno molto diverso. Non è possibile dare un giudizio senza sapere che cosa il governo abbia in mente. Però, dice Ichino, mi sembra anche altrettanto sbagliato fare un muro ancor prima di sapere cosa voglia fare il governo, come se su questa materia a priori non si dovesse legiferare. Se la posizione dei sindacati è questa, hanno sbagliato. E la posizione dei sindacati pare proprio questa, cioè appena si è emersa questa idea dei licenziamenti più facili, questo che è un po' un titolo, uno slogan, ma poi bisogna vedere in concreto come, che significa licenziare più facilmente per le aziende in crisi. Berlusconi poi ha promesso ieri a Porta a Porta: ma in quel caso interverremmo con la cassa integrazione per le persone che perdono il posto di lavoro per farglielo ritrovare. Sta di fatto che è bastato questo annuncio che per esempio la leader della CGIL Susanna Camusso, intervistata da Repubblica pagina 7 da Luisa Grion, dice: sono attacchi ai lavoratori, è ora di mobilitarsi. Quello rivolto alle norme sul lavoro è il primo attacco. Trovo intollerabile che venga dato il via libera al licenziamento tirando in ballo la lotta al precariato e raccontando la favola che le imprese non assumono per la difficoltà che incontreranno poi a licenziare. Sui dipendenti pubblici, mobilità e riduzione del personale vengono in realtà messi al servizio delle liberalizzazioni. Il terzo attacco è alle pensioni. Si fa una forzatura a un sistema che è in equilibrio e senza indirizzare nemmeno una piccola parte delle risorse che si intende recuperare a favore della previdenza dei giovani. E poi l'invito anche a CISL e UIL: bisogna ribellarsi. A dire la verità, su questo la segue abbastanza Raffaele Bonanni della CISL, che ha detto, quando ha sentito parlare appunto di licenziamenti più facili: reagiremo subito, sono proposte che istigano alla ribellione. Così Raffaele Bonanni. Insomma, diciamo che questa lettera fa abbastanza discutere, soprattutto su questo punto, quello della possibilità di licenziamenti più facili per le aziende in crisi. C'è molto su questa lettera di retroscena politico del rapporto Tremonti-Berlusconi, che, stando ormai a quello che si legge sui giornali da mesi, è una roba quasi da psicanalisi, se è tutto vero quello che si legge, perché insomma ogni giorno si scrive che il rapporto tra i due è sceso ai minimi storici, per cui se si dovesse seguire quello che si legge sui giornali siamo sprofondati nella fossa delle Marianne del rapporto tra Berlusconi e Tremonti. Sta di fatto che il Riformista titola così in prima pagina: la lettera di Berlusconi che silura Tremonti. La missiva annuncia lacrime e sangue, pensione a 67 anni, licenziamenti facili, dismissione del patrimonio. Sullo sfondo c'è l'attacco al ministro. Allora, questa lettera è stata, come chiedeva per esempio due giorni fa il direttore del Corriere della Sera De Bortoli, è stata firmata da Tremonti, è stata voluta da Tremonti, è stata appoggiata da Tremonti. Qualcuno fa notare, il Sole 24 Ore oggi, che quell'accenno sull'Eurosud tra gli impegni che si prende il governo nei prossimi 8 mesi, beh, è una cosa fortemente voluta da Tremonti, cioè come impegnare i fondi europei al sud. E dunque quel piano Eurosud, qualcuno ci legge dietro, ecco, vedete che Tremonti, se è citato il piano Eurosud, c'è dietro questa lettera. Stando a quello che si legge invece sui giornali, giornali autorevoli, il Corriere della Sera per esempio, a pagina 9, il premier e Tremonti mai così distanti, tra accuse e richieste di dimissioni. Sono 3 giorni di tensioni, c'è stato anche un duro faccia a faccia tra i due. Berlusconi avrebbe detto: mi esaspera, non lo sopporto più. Si è sfiorata anche la rottura 2 giorni fa dopo il Consiglio dei Ministri che si è concluso senza accordo. E dicono che mai come ora i rapporti siano tanto distanti. Eccolo qui, mai come ora i rapporti tanto distanti, ma si legge tutti i giorni. Per Repubblica, Tremonti prende le distanze, quella lettera non è mia. Pare che abbia assistito con distacco ai tentativi del premier di riaccreditarsi in Europa. La lettera non è mia, facciano come vogliono, avrebbe detto Tremonti, che poi definirebbe questa lettera una letterina. Anche per La Stampa, l'ira di Tremonti, non potremo mantenere quelle promesse. Amedeo La Mattina racconta a pagina 12 che avrebbe detto così Tremonti: fate voi. Su questa lettera, fate voi. E infatti se n'è andato nel pieno del vertice a Palazzo Grazioli 2 giorni fa, quando Berlusconi insieme ai ministri stava mettendo a punto questa lettera. Poi c'è anche invece Giovanni Palombo, che è il retroscenista numero uno del secolo XIX, che segue la politica a Roma e che, guardate cosa mette di titolo, ma verrebbe ad aggiungere: ma che lettera, ma che piano di intenti, ma che faremo entro 8 mesi? Il Cavaliere ordina via alla campagna elettorale. Sotto sotto in realtà Berlusconi avrebbe già detto: non reggiamo, i voti prima o poi non ci saranno, a marzo si vota e dunque via la campagna elettorale. Capite che insomma c'è un po' di confusione. C'è anche un po' di colore di quello che è avvenuto ieri a Bruxelles, ma sì. Le foto sono già sui giornali, su Libero a pagina 7, il Messaggero mette una fotosequenza a pagina 2. Che cosa è successo e cosa ha fatto il presidente del Consiglio Berlusconi? È rimasto colpito dalla neo premier danese Helle Thorning-Schmidt, alta, bionda e con un gran sorriso, così la definisce Libero. E infatti la fotosequenza del Messaggero a pagina 2 è abbastanza impietosa. Berlusconi che la nota, Berlusconi che le stringe la mano, poi la premier danese prosegue per la sua strada e Berlusconi cosa fa? Zac! Gira la testa e la squadra da dietro, dall'alto in basso. Silvio colpito dalla danese, così titola Libero a pagina 7. Che cosa è successo invece ieri alla Camera? Una bella rissa da Far West. Eccoci qua con la bella rissa da Far West che ieri è andata in scena alla Camera. La questione era cosa? Fini, perché Fini è andato a Ballarò e 2 giorni fa ha detto questa frase. Per la verità la notizia stava su tutti i giornali, cioè che la moglie di Bossi è una delle baby pensionate, cioè da quando ha 39 anni riscuote tutto secondo la legge la pensione come insegnante. Fini l'ha detto a Ballarò, le accuse, una caduta di stile, oggi Libero attacca, parla proprio lui, da che pulpito sarà pensionato tra poco della politica con un vitalizio senza aver mai lavorato, avrà anche la pensione da giornalista, avrà anche tutti i privilegi da ex presidente della Camera. Insomma, c'è stata un'accusa ieri Poi alla Camera è stato accusato, Fini fa politica, deve dimettersi, insomma tutte questioni molto serie se volete politicamente. Poi la scena è trascesa davanti a una scolaresca di allievi delle scuole medie che erano lì per visitare i templi della democrazia, dove si legifera, dove ci sono le persone che fanno le leggi per portare avanti il paese, una bella rissa da saloon del Far West. Tra l'altro la professoressa che accompagnava questi scolari sarà nostra ospite alle 8:30, ci racconterà. Ieri poi hanno dovuto chiedere scusa a questi studenti che hanno assistito a questa scena. Vabbè, si sono azzuffati il leghista onorevole Fabio Rainieri e il deputato di Future Libertà Claudio Barbaro, dunque un leghista e uno di Fini. Una scena finale, racconta Monica Guerzoni sul Corriere, che inquadra il leghista Fabio Rainieri, parmigiano alto e corpulento, che esce come una furia dall'emiciclo, approda in transatlantico, giacca aperta, camicia fuori dai pantaloni, cerca Claudio Barbaro, il finiano che gli ha fatto perdere le staffe, lo trova, sta per placcarlo quando i commessi lo prendono sotto scorta e lo portano al ristorante. Non ce l'hanno fatta invece in aula, dove sono volati spintoni, urla, buffone, terrone di merda, insomma questi epiteti un po' così, qualche schiaffone e poi tutto sedato. Oggi Gramellini nel suo buongiorno sulla stampa dal titolo Camera bassa: franano pezzi di Liguria e di Toscana trascinandosi un fardello pesante di morti. L'Italia si gioca qualche resta della sua faccia, forse solo il Cerone, con una lettera d'intenti all'Unione Europea. Fini ricorda Ballarò che la moglie di Bossi riceve la pensione dall'età di 39 anni. Secondo voi quale di queste tre notizie ha catalizzato l'interesse dei nostri deputati ieri? Non ci sconvolge l'idea che due di loro si siano picchiati, ma è davvero umiliante che un bossiano e un finiano si siano strappati a vicenda la camicia per una disputa che riguardava solo i rispettivi capi e i loro cerchi più o meno magici, e neanche per la strada, dove almeno avrebbe potuto essere arrestati per disturbo alla quiete pubblica. Si sono scazzottati nell'aula di Montecitorio davanti a una scolaresca che assisteva allo spettacolo circense dalla tribuna del pubblico. E proprio quando la nostra reputazione all'estero, mai così bassa dai tempi dei Visigoti, suggerirebbe ai rappresentanti della nazione di assumere atteggiamenti compatibili con lo scranno indegnamente ingombrato dai loro glutei. Ecco a cosa si è ridotto il Parlamento del Porcellum, manipoli di sgherri, fedeli a questo o a quel capo bastone che sguainano le mani per bisticci di bottega, mentre fuori tutto frana. Ne parleremo alle 8:30. A proposito di frane, sono davvero incredibili le immagini che trovate, le foto, a parte i racconti che su Radio 24 già da ieri mattina potete ascoltare, ma poi le foto sono impressionanti. Il secolo XIX, oggi ovviamente anche per comprensibile vicinanza territoriale, propone pagine e pagine della devastazione, di come non tanto le frane o le cascate d'acqua, ma le bombe d'acqua, come tutti li definiscono i testimoni oculari, delle vere e proprie bombe, hanno devastato. Monterosso è in ginocchio, Monterosso è devastata, poi c'è Borghetto Vara dove si piangono diversi morti, strage nel fango, questo è il titolo del secolo XIX in prima pagina, ma poi su tutti i giornali ci sono i resoconti di paesi davvero straziati. Anche per colpa, purtroppo, va detto, dell'incuria del territorio. Questo certamente c'è. Voglio chiudere con un sorriso, ma perché ci sono paginate su tutti i giornali, Il secolo XIX una pagina, Libero una pagina, Il Giornale una pagina. Cosa ha combinato Paolo Villaggio? In arte Fantozzi. Ha pubblicato il nuovo libro Mi dichi, congiuntivo del verbo dire, no? Come tutti sappiamo, e se l'è presa in un passaggio con i friulani, cari friulani, siete stati definiti così nel libro di Fantozzi: gente che per motivi alcolici non è mai riuscita ad esprimersi in italiano, parla ancora una lingua fossile impressionante, ha un alito come se al mattino avesse bevuto una tazza di merda, scusate ma viene proprio da ridere, e ha pure l'abitudine di ruttare violentemente. Questo Fantozzi, il governatore del Friuli, tondo, molto seriamente ha detto: allora, la questione dell'alcolismo è un luogo comune sui friulani. Lo è anche parlare una lingua antica e incomprensibile, ma quella dell'alito e soprattutto io non rutto, ha detto il governatore Tondo al secolo XIX testuale, io non rutto, e quindi probabilmente querelo Paolo Villaggio. È gente ubriaca, il Friuli querela Paolo Villaggio sul secolo XIX, e anche il giornale Fantozzi contro i friulani, guerra sul rutto libero. Un popolo di alcolizzati, e Fantozzi fa infuriare il Friuli. 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci, sono le 8:21 minuti. Vogliamo parlare di attualità internazionale. L'Italia in primo piano, in questo caso lo facciamo con il ministro degli esteri Franco Frattini, che saluto. Ministro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, i rapporti con l'Europa ovviamente sono in primo piano. Intanto questa lettera di intenti che ha presentato il governo, non è un piano, ministro, troppo ambizioso? Vista la situazione politica, qualcuno dice irrealizzabile addirittura. La domanda che lei mi fa è veramente sorprendente. Il piano è troppo ambizioso? Oggi, quando non c'era il piano, si diceva non c'era un piano ambizioso. Certo, è un piano molto ambizioso, ma è quello che si deve fare e che si farà, perché nessuno metta più in dubbio che la volontà dell'Italia è di rimanere a pieno titolo tra i grandi paesi europei solidi e affidabili. Quindi non è irrealizzabile, si deve realizzare, evidentemente dipenderà dalla capacità del sistema politico italiano di rispondere ad un piano che l'Europa ha apprezzato, condiviso, espressamente segnalato come una serie di misure da attuare, che noi abbiamo programmato debbano entrare in vigore tutte e comunque entro 8 mesi. Evidentemente non è un tempo estremamente ridotto, ma è certamente un tempo entro il quale il mercato del lavoro, il sistema pensionistico, le liberalizzazioni debbono cominciare a funzionare. Se poi c'è qualcuno in Italia, nella politica intendo, che dice comunque non dobbiamo e non possiamo realizzare piani ambiziosi, lo venga a dire, lo spiegherà agli italiani. C'è già, per esempio, su un punto, quello che viene tradotto sui titoli dei giornali, licenziamenti più facili per le aziende in crisi, i sindacati sul piede di guerra. Come giudica questa posizione? Ma io comprendo le posizioni della CGIL, ma non le condivido. La CGIL deve evidentemente entrare in un'ottica europea. Anche la CGIL non può pensare di vivere in un'isola separata dal contesto globale. Se l'Europa chiede una flessibilità del mercato del lavoro, questa non può applicarsi dovunque tranne che all'Italia, perché lo dice la CGIL. Evidentemente la CGIL è un grande sindacato che deve comprendere come oggi c'è un interesse a rilanciare il mercato del lavoro e la crescita. Quello che gli imprenditori italiani hanno sempre chiesto è quello di dare un nuovo impulso alla capacità di assumere, non alla capacità di licenziare, ma evidentemente in un momento di crisi una flessibilità del mercato è necessaria. Senta, ministro, secondo alcuni autorevoli commentatori, ieri lo scriveva il direttore del Sole 24 Ore, anche il direttore del Corriere, c'è un problema di credibilità italiana in Europa legata proprio anche alla figura del Presidente del Consiglio, al nome Silvio Berlusconi. Lei cosa dice? Vede, le opinioni dei direttori dei giornali sono sempre un utile contributo alla discussione. La reazione di ieri al piano presentato dall'Italia e presentato e firmato dal Presidente del Consiglio mi sembrano reazioni unanimemente positive, quindi evidentemente la pregiudiziale su Berlusconi è una pregiudiziale di chi pensa forse a manovre di palazzo. Io non penso che le manovre di palazzo aiutino l'Italia, quindi cerchiamo di attuare questo programma che ormai un programma chiesto e condiviso dall'Unione Europea, e poi evidentemente si vedrà sul campo se, come io ritengo, la credibilità del governo è ancora tale da permettere l'approvazione di questo pacchetto. Ma a proposito di credibilità, secondo lei Sarkozy e la Merkel dovrebbero formalmente scusarsi per quella scenetta di qualche giorno fa? Ma guardi, dipende molto dai caratteri delle persone. Loro hanno dato una spiegazione, quindi a loro modo hanno già chiarito, hanno detto stavamo sorridendo perché ci stavamo chiedendo chi di noi dovesse rispondere per primo. Io ripeto le parole del presidente Napolitano, sono degli episodi che certamente sono stati inopportuni, i gesti del corpo talvolta parlano. La signora Merkel, a quanto abbiamo saputo, ha avuto un colloquio molto cordiale ieri a Bruxelles con il presidente Berlusconi, non risulta altrettanto col presidente Sarkozy, ma evidentemente io credo che la questione abbia ricevuto in Italia la risposta giusta, cioè se vi era anche lontanamente l'intenzione di un sorriso sull'Italia, questo sorriso era certamente del tutto fuori luogo. Senta, mi lasci dare uno sguardo al di là del Mediterraneo. Ci deve preoccupare, Ministro, questa, qualcuno ha definito, autunno islamico dopo la primavera araba? Cioè la Libia che dice, pensiamo alla Sharia, ci deve preoccupare? Ma guardi, dipenderà molto da noi, dipenderà molto da come noi europei sapremo interpretare questo cambiamento con rispetto verso paesi che da sempre hanno l'ordinamento islamico come base del loro sistema. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che l'Egitto ha sempre avuto nel suo sistema costituzionale il richiamo alla Sharia, cioè alla legge coranica. La Libia ha chiarito col suo presidente Abdeljalil che i libici sono musulmani moderati e noi prendiamo come seriamente questa affermazione del presidente Abdeljalil. Evidentemente saremo lì, accompagneremo i libici per segnalare subito se vi fossero ad esempio delle violazioni a quei diritti che noi riteniamo non negoziabili, penso ai diritti delle donne in primo luogo, e la nostra voce in questo caso si leverebbe molto chiara, molto forte, o al diritto di aprire una chiesa cristiana, cosa che non è mai stata negata, e io stesso ho visitato a Tripoli la chiesa cattolica con il suo vescovo Martinelli, quindi dipende da noi. In Tunisia i musulmani moderati hanno vinto le elezioni, è un partito che si richiama al partito di Erdogan della Turchia e nessuno può dubitare che il sistema turco non sia un sistema teocratico in cui, come dire, la Sharia è interpretata. Quindi i timori sono esagerati, insomma bisogna vigilare. Che noi siamo presenti e accompagniamo l'evoluzione in questi paesi. Ministro, mi faccia fare una domanda eminentemente politica perché è all'ordine del giorno, visto quello che è successo ieri alla Camera, no? La rissa da Far West. Secondo lei Fini è compatibile con la presidenza della Camera o no? Ma guardi, dipende molto da lui, dipende dai suoi comportamenti, dipende dalle spiegazioni politiche che vorrà dare. Evidentemente la gestione dell'aula è un qualcosa su cui noi abbiamo fatto degli appunti, come si fanno a tutti i presidenti. Sono le azioni tenute fuori dell'aula che hanno preoccupato la politica. Quindi la domanda è molto semplice. Il presidente della Camera, che deve rappresentare anche me, cioè un parlamentare della maggioranza, essendo lui il capo di un partito dell'opposizione, può assumere fuori dell'aula comportamenti politici in cui chiede che il governo e la maggioranza vadano a casa? In quel momento parla come capo di un partito o come presidente super partes di un'assemblea? È possibile questo sdoppiamento? Vede, c'è una importante posizione che prese proprio il presidente Fini, che allora non era presidente della Camera, molti e molti anni fa, quando la Camera era presieduta dall'onorevole Pivetti, era il 94, e lui disse apertamente che il presidente della Camera è sempre presidente della Camera, quando parla dentro e quando parla fuori del Parlamento. Questo lo disse criticando l'allora presidente della Camera, Irene Pivetti. È cambiata questa sua opinione? Io non lo so, ma il problema è un problema politico da affrontare, come dire, senza scontri, senza risse, senza quella risentimento che poi, se si diffonde su YouTube un filmato di quel che, come dire, è successo ieri, sì, comunica solo tristezza. Fa solo danni, sì, fa solo danni. Comunica solo tristezza perché poi ci coinvolge un po' tutti. Ministro, poi le devo chiedere, alla fine qualche giornale come Repubblica ne ha chiesto anche le sue dimissioni. Ci può spiegare agli italiani il rapporto che c'è tra Walter Lavitola e lei e il suo ministero? Ma guardi, io ho semplicemente chiarito con dei comunicati ufficiali questa storia di Lavitola. È molto curiosa perché nel 2009 questo signore era il direttore di un giornale. In quanto direttore di un giornale fu chiamato e si trovò a una conferenza stampa perché voleva salutare il mio collega che era venuto per una visita ufficiale. Ovviamente non partecipò a nessun incontro ufficiale. La foto che è stata pubblicata, tra l'altro, riprende in pieno proprio il microfono della conferenza stampa, quindi era proprio il luogo dove la conferenza stampa conclusiva, fuori dei luoghi dei colloqui, si era appena conclusa, e lì venne. Le stesse cose le ha dette il ministro Meta. C'è un particolare molto curioso che forse qualcuno dovrà chiarire. È stata pubblicata un'intervista del ministro Meta su un giornale. Il giorno dopo il ministro Meta ha fatto una dichiarazione dicendo che lui quell'intervista non l'aveva mai data. Che succede? Domanda, è strana questa. Quindi insomma lei dice rapporti normalissimi di una persona che era direttore di un giornale, quindi era lì. Certo, nel 2009 ovviamente è fuori di dubbio che se io avessi avuto nel 2009, non ce n'erano immagino di indagini, la consapevolezza o la certezza che vi fossero indagini, beh, certamente il mio comportamento non sarebbe stato quello di permettere anche, come dire, un incontro all'atere ed un saluto nei locali della conferenza stampa, evidentemente, ma nel 2009, sa, col senno di poi è molto facile parlare, ma comunque di incontri istituzionali certamente non ce ne sono. La ringrazio, buona giornata. Prego. Ministro, per essere stato con buona noi, giornata. Il ministro degli esteri Franco Frattini. Allora, le 8:38 minuti, eccoci qua, l'attualità politica ora, dopo aver avuto il ministro Frattini, ne parliamo con il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, entrambi do il buongiorno ovviamente, ma direttori, prima voglio partire da una professoressa, che saluto, la professoressa Beatrice Di Brizio, buongiorno professoressa. Buongiorno. Lei buongiorno. Insegna matematica alla scuola media dell'Istituto Comprensorio di Scansano Ionico, quindi siamo in provincia di Matera, e ieri avete avuto la bella idea di andare a visitare il Tempio della Democrazia, il Parlamento, laddove certo, si fanno le leggi, certo. Con i vostri allievi, quanti della scuola erano media? Erano circa 58. Immagino tutti emozionati, insomma, entriamo in Parlamento. Molto emozionati. Veramente si sono comportati in modo eccellente. Loro. Perché siete andati lì e avete visto una bella rissa da saloon tra certo. due deputati che si sono accapigliati. Professoressa, come hanno reagito i suoi allievi? Ma i nostri ragazzi, cioè noi cerchiamo veramente di educare i nostri ragazzi al rispetto dell'altro e al rispetto anche delle regole. E pensavamo di completare un percorso iniziato 3 anni fa con questi ragazzi, offrendo loro la possibilità di visitare i luoghi della democrazia, del dialogo, della politica costruttiva. Ma purtroppo abbiamo dovuto assistere in diretta alla degenerazione della politica e delle regole, e addirittura sfociando in violenza fisica, cose che noi cerchiamo di deplorare in modo assoluto, senza se e senza ma. Che le hanno detto? Cioè, alcuni, mi dica qualche ragazzi, commento, ovviamente sì. saranno rimasti un allora, po'. Allora io le dico, perché poi chiaramente ne abbiamo parlato facendo venire fuori le loro considerazioni. Bene, il nostro baby sindaco, perché noi abbiamo anche il nostro baby sindaco, ha fatto questa riflessione: sono questi i nostri rappresentanti al Parlamento? Se è così, forse gli adulti dovrebbero prendere esempio da noi ragazzi. Beh, insomma, è una giusta riflessione. Professoressa, stia con noi, perché insomma ci interessa quello che è successo ieri alla Camera, ma sullo sfondo c'era tutta la questione, la rissa è partita da questo, per la questione del ruolo di Gianfranco Fini. Alessandro Sallusti, eccoci, direttore del giornale. Allora, questi allievi hanno assistito a questa bella rissa da saloon, ma la domanda è: Fini perché si dovrebbe dimettere da Presidente della Camera? Beh, innanzitutto buongiorno e do un benvenuto a questi ragazzi del mondo reale, che è il mondo della politica, per la verità non solo italiana. Queste rissa avvengono santuariamente, avvengono un po' in tutti i parlamenti del mondo. Beh, si dovrebbe dimettere non per quello che è successo ieri, si dovrebbe dimettere perché è un leader politico attivo. È vero che altri presidenti della Camera avevano ruolo di capo di partito, ma avevano congelato quel ruolo proprio per ossequio rispetto all'istituzione Camera. Fini non l'ha fatto, anzi è a pieno titolo nella rissa politica, e quindi il buon gusto direbbe che dovrebbe dimettersi. Ma nel fatto politico poi c'è un fatto personale che io giudico inquietante per due motivi. Primo, che Fini parli di parenti, beh, insomma, ci vuole coraggio, perché con quello che ha combinato col cognato e la casa di Monte Carlo, direi che lui in quanto parenti proprio non ha titolo per parlare. Il secondo è che credo che gli italiani siano indignati più per la baby pensione della signora Bossi, siano indignati per la maxi pensione del signor Fini. Cioè che Fini parli di privilegi su pensioni, beh, è uno che avrà un vitalizio straordinario, è uno che prenderà più soldi di quanti ne ha versati, per cui insomma sono due argomenti, parenti e pensioni, sulle quali Fini proprio non ha titolo, non dovrebbe toccare. Allora, Antonio Padellaro, eccoci qua, direttore del Fatto, buongiorno. Anche lei come legge, anche attraverso gli occhi della professoressa Beatrice Di Brizio, che dice aveva portato questi giovani per concludere questo percorso di legalità, di rispetto del prossimo, nel tempio della democrazia. Sallusti dice benvenuti nel mondo reale della politica. Lei che dice, Padellaro? Buongiorno a tutti. Ma io penso che non sia scandaloso il fatto che dei parlamentari litighino, cioè si accalorino e magari entrino in contatto. Sono d'accordo con Sallusti, è sempre successo nel Parlamento italiano e non solo nel Parlamento italiano. Io penso che questo Parlamento è scandaloso per un altro motivo, per la compravendita dei deputati che avviene sotto gli occhi di tutti con dichiarazioni pubbliche. E forse la professoressa dovrebbe spiegare a questi ragazzi che lo scandalo è questo: deputati venduti e comprati. Ecco, su questo i ragazzi hanno certamente avuto un pessimo esempio. Senta, perché oggi il suo giornale titola Lettera morta? Si riferisce ovviamente alla lettera d'intenti, quello che il governo ieri col premier Berlusconi è andato a dire a Bruxelles: faremo nei prossimi 8 mesi. Perché è un pezzo di carta che è stato scritto, devo dire anche abilmente, per prendere tempo. Berlusconi deve prendere tempo per evitare i governi di transizione, quelle cose là, eccetera, per dare un contentino all'Europa, ma si tratta di parole che sarà difficilissimo tradurre in fatti, per tre motivi rapidissimi. Innanzitutto perché si tratta di provvedimenti di macelleria sociale, riguardano la stretta sulle pensioni, licenziamenti facili, che hanno avuto l'effetto di riunire i sindacati, cioè dopo parecchio tempo CGL, CISL e UIL si ritrovano sulla stessa linea, dopo che CISL e UIL invece avevano appoggiato spesso le posizioni del governo. Il secondo motivo è che non si capisce con quale maggioranza possa approvare queste leggi pesantissime. Tra l'altro Berlusconi ha un ministro dell'economia, Tremonti, che va su un'altra direttrice, non ha partecipato neppure alla riunione per la definizione della lettera. E il terzo punto è perché lo sanno tutti, e forse questa è stata la vera assicurazione ricevuta dall'Europa, che si andrà molto probabilmente a elezioni anticipate. Non si vede come Berlusconi, che è già in caduta libera nei sondaggi, possa presentarsi al proprio elettorato, che è anche un elettorato di ceto medio, con provvedimenti, ripeto, di macelleria sociale durissimi per le persone che hanno già ha fatto tanti sacrifici sui quali hanno agito i tagli e i sacrifici che sono stati chiesti su questo punto. Effettivamente voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico dal direttore del giornale Sallusti, cioè tutti i giornali sono unanimemente concordi sul fatto che molto probabilmente si andrà a votare a primavera. Addirittura oggi il Secolo XIX dice che Berlusconi ha già dato l'ordine di dire partite con la campagna elettorale. E allora se si parte con la campagna elettorale, che senso ha fare delle promesse a 8 mesi? Eccoci qui, Sallusti. Allora, si va a votare? La prima domanda è secca: nella primavera prossima? Tutti dicono di sì, anche voi del giornale o di Libero fate capire che il governo, insomma, c'è o non c'è. Dico il giornale Libero, cioè giornali più vicini politicamente al governo. Ma io direi che questa era l'ipotesi più probabile prima di questa lettera. Paradossalmente questa lettera, che in quanto lettera è uno scritto, non è un fatto, è un impegno, allontana l'elezione, l'allontana per 3 motivi. Il primo è che Berlusconi rinsalda il patto politico con i suoi elettori. Questa è una lettera dal forte contenuto liberale ed era dalla discesa in campo del 94 che non si vedeva più una lettera di intenti di questo genere, di questo alto passo di modernità e di liberalità. Il secondo motivo è che Berlusconi ha trovato un alleato fortissimo, che è l'Europa, nel senso che questa lettera è parte integrante di un accordo europeo e quindi deve essere rispettata da questo governo o da governi che verranno. Ma se c'è Tremonti che neanche l'ha firmata, per esempio. Il terzo motivo è che ha disinnescato Tremonti. Secondo me disinnescare Tremonti è un fatto di stabilità, non di instabilità. Cioè disinnescare cosa vuol dire? Cioè che se ne deve andare? Vuol dire che Tremonti conta molto meno e i suoi poteri di veto da oggi valgono molto meno, perché il piano di la roadmap, il piano di lavoro è scritto, è molto chiaro e non è più discutibile. Il quarto, ne aggiungo un quarto, ha raffreddato le tensioni tra PDL e Lega, perché quell'accordo sulle pensioni sospendere, cosa peraltro non richiesta in maniera categorica dall'Europa, il fatto di mettere mano sulle pensioni sicuramente agevole i rapporti. Quindi secondo PDL, questa Lega, lettera serve allontanare le elezioni. Io vorrei tornare per un attimo dalla nostra professoressa Beatrice Di Brizio. Eccoci qua, professoressa, lei che ha portato i suoi studenti ieri in Parlamento. Che cosa chiedono alla politica i ragazzi, ragazzini, insomma, già ancora adolescenti, ma avranno delle idee già chiare? Credono nei politici, credono nella politica? I ragazzi sono, io direi, e questo è l'aspetto negativo, sono disillusi. E fa molto male questo aspetto, perché è la nuova generazione che si sta formando. Quando il signor Sallusti parla di benvenuti nella realtà, ebbene, noi dobbiamo cercare di mettere in evidenza, cioè non possiamo dire che questo rientra nella normalità, dobbiamo sempre stabilire quali sono i limiti del vivere civile e quello che va oltre e che non è accettabile, perché sminuendo confondiamo questi ragazzi. Ha capito, Sallusti dice sminuire, cioè dire ma sono cose che succedono in Parlamento, in Italia, non in altri parlamenti. Non devono succedere queste cose. È un po' come non dire sminuire succedere. Vuol dire far passare l'idea che insomma tutto può andare. Sallusti, considerato normale. Sallusti. Nessuno li considera normale. Volevo soltanto sostenere che la vita all'interno di qualsiasi comunità, che sia la famiglia, la scuola, la società, il Parlamento, è fatta anche di cose non normali, che non è che vanno sminuite, ma con le quali bisogna fare i conti e prenderne atto. Questo intendevo dire. Cioè non sono migliori quelli che stanno in Parlamento, sono uno spaccato, capito professoressa? Questo è il senso. È lo spaccato della nostra società. Cioè, non è che in Parlamento trovate un'elite di persone che vivono distanti staccate dal mondo reale per quel che riguarda i comportamenti umani, insomma, che tutti noi teniamo, purtroppo a volte anche negativi. Però il rispetto delle regole, il rispetto delle idee altrui dovrebbe essere alla base della democrazia. Su questo non c'è dubbio. Senta, Padellaro, perché voi fate questa campagna portata avanti anche da testimonianza di parlamentari di Futura Libertà, a dire appunto c'è questa compravendita di... Però la compravendita, lei sa che può essere vista in vari modi, cioè la compravendita è un cambiare idee, cambiare opinione, si sa che devono rispondere solo del loro mandato, no, i parlamentari. Provare un'accusa di compravendita di parlamentari, questo è una cosa un po' più difficile, no? Padellaro. Ma noi facciamo i giornalisti e raccogliamo testimonianze, ne abbiamo raccolte ben tre di deputati di Futura Libertà che dichiarano, due punti virgolette, di essere stati avvicinati da Verdini, che non è un passante ma è uno dei coordinatori del PDL, che ha detto loro per votate per la maggioranza, passate con noi, e a ciascuno Verdini ha detto chiedi cinque cose, che sembra il ritornello di una canzone, e cercheremo di accontentarti. Due di questi dicono di essere stati ricevuti da Berlusconi e di aver avuto la stessa assicurazione, chiedimi quello che vuoi e io ti accontenterò. Allora può darsi che mentano, queste cose vanno accertate dalla magistratura, che infatti ha aperto il cosiddetto fascicolo. Il problema è che certi fascicoli restano nei cassetti. Allora noi ci siamo permessi di dire che la magistratura romana, perché credo che sia quella competente, dovrebbe indagare su queste, per accertare se questi tre che hanno fatto dichiarazioni gravissime al nostro giornale sono dei millantatori e allora vanno giudicati come tali, o se dicono la verità. Ma se dicono la verità bisogna andare avanti nell'indagine, è molto semplice. Quello che non è accettabile, e credo che anche in questo i ragazzi di cui si parlava prima forse ne siano, debbano essere consapevoli, non possono essere contenti, e che si faccia finta di niente in questo paese. Va bene tutto? No, non va bene tutto. Ci fermiamo qui, grazie ad Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti e alla professoressa Beatrice Di Brizio che ci ha portato questa testimonianza dei ragazzi ieri in Parlamento, con Peter Bescapè in regia e Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni al di là del vetro in redazione. Ci ritroviamo domani, andate su Facebook, è 24 mattino, a domani.